A bordo campo di Dario Ricci. Salary cap, contingentamento delle rose, incentivi per agevolare i trasferimenti dalla Serie B alla Serie A e poi il progetto B Futura. Insomma, parliamo oggi qui a bordo campo della Serie B, la Serie B del calcio, che rappresenta una tradizione, un bacino d'utenza storico ed è una spesso trattata come la figlia minore del grande calcio della Serie A, però sarà anche perché, questa è la considerazione diffusa, riesce ad essere in molti casi molto più lungimirante di quelli che abitano al piano di sopra, che hanno un bel po' di piccioli in più nel taschino e quindi sta lavorando per progettare il proprio futuro. Di tutti questi temi parliamo oggi con il presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, nostro ospite qui a bordo campo. Benvenuto presidente. Un saluto a lei e a chi ci ascolta. Allora presidente, salito da poco in cattedra anche per lo Sport Business Academy Award promosso dalla Bocconi, che insomma l'ulteriore marchio di qualità al lavoro che state facendo nella cadetteria. Mi interessa molto partire proprio dal tema salary cap, perché da anni se ne discute, lo sport americano è il modello di riferimento in questo senso, ma al piano di sopra, appunto, in Serie A si fanno tante chiacchiere e non se ne ragiona. Come vi state muovendo invece voi per porre un tetto a ingaggi e costi delle rose, dei calciatori? Beh, devo dire che lei è un po' ingeneroso nei confronti dei fratelli maggiori. Diciamo che lì hanno altri tipi di problemi e probabilmente la dimensione economica neutralizza un po' la progettualità, perché è tutto sottoposto a quel parametro. Da noi, proprio per anche per le difficoltà oggettive che vive il nostro contesto, abbiamo dovuto aggustare l'ingegno e sviluppare proprio tutte le capacità progettuali. Da questo punto di vista, nell'ambito di un progetto che abbiamo denominato B-Forum, sono emerse tutte le iniziative che poi ratificheremo nella prossima assemblea il 29 novembre, che riguardano da un lato il contenimento dei costi, diciamo così, dall'altro uno sviluppo infrastrutturale del quale abbiamo bisogno, una proposta di ammodernamento anche della legislazione sportiva, lo sviluppo delle politiche di marketing e dei canali di distribuzione. Quindi le politiche di integrità e di rispetto, perché tutto poi si muove se alla base del movimento c'è la credibilità e la reputazione, se mancano quelli diventa difficile. E ci siamo orientati solo parzialmente al modello americano, in effetti, perché i nostri mondi sono talmente diversi per storia e anche per dimensione, però è evidente che quando si ha una certezza di un certo montante di ricavi che vengono distribuiti, è normale che a un certo punto si arrivi anche a porre un tetto a quella parte salariale fissa, che è un parametro uguale per tutti. Poi c'è la componente di variabilità che ogni capacità singola delle società alimenterà sulla base anche dei propri obiettivi, che sono diversi l'uno dall'altro. Ecco, interessante il meccanismo che state mettendo a punto, che quello sì è un po' mutuato dal modello americano. Chi sforerà questo tetto, questo salary cap, vedrà proporzionalmente ridursi i contributi a lui destinati, no? I contributi di Lega. Sì, i contributi di Lega. Nel senso che non vogliamo totalmente impedire a chi ne ha le capacità di attuare politiche diverse, però dobbiamo, visto che siamo in un'associazione, stabilire delle regole dello stare assieme, che da questo punto di vista redistribuiscono sulle virtuose quello che quelli meno virtuosi non riescono appunto a fare. Le chiedo, ecco, visto dal piano di sotto, il fair play finanziario voluto dal presidente Platini per l'UEFA, che effetto le fa? Nel senso che, chiacchiere da bar, tutti dicono sì, bella storia il fair play finanziario, poi guarda il Paris Saint Germain che col giochino degli sponsor spende i fantamilioni. Insomma, può essere uno strumento credibile o a questo punto ancora da verificare già in quali aspetti potrebbe essere migliorato? Guardi, il giudizio da parte nostra sarebbe forse anche inopportuno e presuntuoso, perché siamo una categoria sottostante e ci siamo dati le nostre regole di fair play finanziario. Una è quella che le ho appena annunciato, diciamo. L'altra è già consolidata, ovvero noi da tempo mettiamo in equilibrio il valore della produzione e il montante degli emolumenti, cerchiamo quindi di tenere sotto controllo questa partita doppia per evitare che ci siano eccessivi sforamenti, che nel caso in cui si determinino poi devono essere garantiti da fideiussione.

quell'impegno, quell'assunzione di responsabilità la misureremo e manterremo alto il livello, come dicevo prima, dell'attenzione, perché non venga mai tradito il patto di lealtà tra il nostro mondo giocato e quello che alimenta il nostro mondo, che è il mondo dei tifosi e degli appassionati, senza il quale saremo poca cosa. Dopodiché dovremo, anche dal punto di vista dei rapporti tra le leghe, in qualche maniera anche nei rapporti economici, gestire una piccola emergenza. Andiamo incontro nelle prossime settimane a un round elettorale che poi porterà prima all'elezione dei presidenti di Lega, poi a quello di Federazione e poi addirittura a quello del CONI. Mi auguro che questa stagione venga vissuta non con la logica appunto delle sibilazioni elettorali, ma con la logica del sistema che costruisce dignitosamente il suo percorso per offrire spettacolo in modo spensierato a quelli che entrano dentro i nostri stadi. Ultima emergenza vera, anche questa: vogliamo riportare la gente negli stadi. Probabilmente dipende anche da quanto saremo bravi a fare tutto il resto, perché la gente negli stadi ci entra quando c'è spettacolo, e lo spettacolo è credibile, i linguaggi e i comportamenti sono adeguati, e quindi quando faremo bene il nostro mestiere probabilmente la gente ritornerà come c'è sempre stato, perché il livello della passione popolare nei confronti del calcio è alta, ma dovremo sempre meritarcela. E allora, agenda fitta di impegni e di promesse da mantenere. Presidente Andrea Bodi, la ringrazio molto per essere stato oggi nostro ospite qui a Radio 24 a Bordo Campo. Le do però appuntamento proprio per seguire gli sviluppi di Bifutura, perché progetto interessante, progetto importante per il nostro calcio e non solo per la cadetteria, quindi la seguiamo passo passo nella realizzazione di questa idea. Grazie dello spazio, ci farà piacere nelle prossime settimane poter testimoniare che quello che diciamo poi effettivamente si realizza, ci sarà un piacere farlo con voi. Ora una breve pausa e poi ancora insieme qui a Bordo Campo. A Bordo Campo. Inverno che ormai è alle porte, stagione sciistica che è già cominciata, Coppa del Mondo 2012-2013 che sta muovendo i primi passi e speriamo di toglierci già le prime soddisfazioni, qualcuna in verità è già arrivata, ma oggi a Bordo Campo vi parliamo sì di neve e di sci, ma soprattutto del futuro dei nostri sport invernali, perché c'è un progetto messo in piedi dalla Federazione Sport Invernali Italiana che davvero ha stuzzicato la nostra curiosità. Parliamo del progetto Futur Fisi, rivolto proprio ai giovani talenti dei nostri sport invernali. E allora salutiamo subito il nostro primo ospite, che è Dante Bertò, che è presidente del progetto Futur Fisi proprio per la nostra Federazione Sport Invernali. Benvenuto presidente Bertò. Grazie, un saluto a tutti voi. Presidente, allora, Futur Fisi, ci spieghi un po' questo progetto che è rivolto a 10 discipline olimpiche e soprattutto a quei ragazzi, a quei giovani che oggi hanno tra i 15 e i 20 anni, che diciamo sono il futuro di queste discipline e anche le nostre speranze olimpiche, a partire, non dico già da Sochi, ma dalle prossime edizioni delle Olimpiadi Invernali. Bene, Futur Fisi è un progetto multidisciplinare della Federazione Italiana Sport Invernale, fortemente voluta dal nostro presidente federale Flavio Roda, dove diciamo che l'obiettivo principale è quello di rilanciare l'intero movimento giovanile dalle 10 discipline olimpiche. Si parte dallo sci alpino, dallo sci di fondo, trampolino, biathlon, bob, skeleton, sci di velocità, che vuol dire chilometro lanciato. Direi che è un progetto di grande responsabilità, dove noi dobbiamo individuare i migliori atleti fra maschi e femmine nell'età compresa fra i 15 e i 20 anni. I nostri tecnici federali avranno il compito di preparare, di formare questi atleti, sperando poi appunto che fra questo progetto ci siano i futuri campioni del domani. Eh sì, andiamo a cercare i futuri Tomba, ma anche i futuri Blardone, i futuri Armin Zögler, insomma il ricambio generazionale dei nostri sport invernali, ma soprattutto credo che l'obiettivo sia quello di produrre una classe media di atleti di alto livello, no? Perché sappiamo che il campionissimo nasce attraverso il duro lavoro di selezione, di preparazione, ma anche grazie ai doni di madre natura, mentre una fascia di atleti di alto livello si può in qualche modo, tra virgolette, costruire, vero? Certamente, perché questo progetto Futur Fisi è un progetto che non è solo mirato allo sci alpino, ma appunto è coinvolge tutte le discipline anche minori, dove prima alcuni atleti o alcuni settori non avevano la possibilità economica di poter fare attività. Così speriamo che oltre che allo sci alpino, ma che in tutte le altre specialità ci possa essere appunto probabile campione. Noi lavoriamo per questo. Faceva riferimento agli aspetti economici. In un momento in cui anche lo sport, come tutti, tira la cinghia, ci vuole coraggio a lanciare un progetto di questo tipo. Ecco, quanto viene a costarvi come federazione questo progetto? Qual è l'investimento e in quale arco di tempo? Si va sui circa 500.000 euro per il momento. Ecco, Presidente Bertò, le chiedo, quanti sono i giovani in questo momento coinvolti dal progetto Futur Fisi, considerando tutte le discipline a cui questo progetto si rivolge? Bene, considerando tutte le discipline, gli atleti tra maschi e femmine sono oggi 127. Immaginate che soddisfazione a vederne uno magari a Sochi 2014 con una medaglia al collo di questi ragazzi. Noi ci speriamo, Sochi è vicino, comunque diciamo che l'obiettivo è adesso per arrivare poi alle Olimpiadi dopo il 2014, certamente se c'è un fuoriclasse potrà già diciamo esaltare le sue qualità per Sochi. Beh, allora non poniamo limiti alla provvidenza e neppure al talento di questi campioncini in erba italiani. Grazie a Dante Bertò, presidente del progetto Futur Fisi, per essere stato oggi ospite di Radio 24 qui a Bordo Campo. Grazie a lei, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori, buonasera a tutti, arrivederci. Questa è la testimonianza quindi di Dante Bertò, il presidente del progetto Futur Fisi, e ora passiamo al nostro secondo ospite, il coordinatore tecnico del progetto, Roberto Manzoni. Benvenuto a Radio 24 e a Bordo Campo, Roberto. Grazie, un caro saluto a tutti. Allora, obiettivo di Futur Fisi è quello di individuare i nuovi talenti delle nostre discipline invernali. Chissà che non escano fuori proprio da questo progetto, e lo speriamo, i prossimi medagliati olimpici azzurri nelle discipline invernali. Però ecco, le chiedo, dottor Manzoni, veramente difficile riuscire a selezionare già intorno ai 15 anni chi poi sarà campione e chi invece questa parabola dell'attività di alto livello la vedrà invece interrotta per tantissimi e vari motivi. Da questo punto di vista, come state lavorando, o meglio, come intendete lavorare? Noi abbiamo seguito questo profilo, abbiamo cercato di allargare il più possibile la base, perché sarebbe un peccato non mettere, come dire, non accendere riflettori su qualcuno che merita e che rischiamo di perdercelo. E abbiamo intensificato i raduni, i lavori, che comprendessero una grande numerosità proprio di ragazzi fin dalla giovane età. Giovani che quindi richiederanno anche metodologie, immagino, di allenamento diverse e peculiari rispetto a chi campione o atleta di alto livello già lo è, vero? Qui sta, come dire, la particolarità del progetto. Intanto allenatori dedicati, allenatori formati proprio per lavorare con l'età evolutiva. I giovani, i ragazzi, non sono dei grandi in miniatura, sono proprio dei giovani in formazione che hanno delle particolarità tutte loro, sia da un punto di vista fisico, biologico, ma soprattutto da un punto di vista mentale. Come riuscite a inglobare le famiglie anche in questo percorso? Da parte della famiglia, di là, superata la fase di orgoglio, c'è preoccupazione, perché spesso lo sport, così come c'è concepito in Italia soprattutto, preclude possibilità scolastica. Quindi la prima cosa che sta facendo il progetto è quella di coinvolgere, peraltro gli sport invernali sono discipline che richiedono tempo, grandi spostamenti, una logistica particolare, vedi le montagne, e degli investimenti anche economici. Quindi la prima cosa che ha cercato di fare questo progetto è di avvicinare le istituzioni scolastiche e in particolare gli ski college per incontrare la loro complicità, la loro partecipazione, affinché i ragazzi si possano allenare anche con una certa intensità senza perdere di vista la formazione culturale, intellettuale. Tra l'altro parliamo di atleti giovanissimi che quindi spesso vivono in inevitabilmente una fase di grande entusiasmo rispetto alla disciplina in cui eccellono, e anche altrettanto repentinamente una fase di disillusione o addirittura d'abbandono, no? So che lavorate anche su statistiche ben precise, e ci aiuti un po' a definire questa parabola. Il fenomeno dell'abbandono è un problema sentito a livello internazionale. Sono tornato recentemente da un seminario che coinvolgeva molte nazioni, e non è un problema solo italiano quello dell'abbandono, perché ci sono dei competitor, i videogame, altre attività che allontanano un po' dallo sport. Creare entusiasmo non è facile. Stiamo lavorando a questo riguardo anche sul valore educativo della competizione, che non sia vista come un valore assoluto, trasversale, sono il più bravo di altri, ma diamo la misura del miglioramento personale di ogni atleta. Questa è una chiave abbastanza importante. Dicevamo paesi guida, ecco, quali sono i modelli a livello internazionale a cui Futurfisi guarda? Fondamentalmente i paesi scandinavi, il Canada, la Nuova Zelanda e l'Australia. Io li definisco paesi particolarmente civili da questo punto di vista, perché intanto stanno dando grandi risultati, ma perché hanno capito che lo sport, oltre che risultato, successo e salute, e quindi si coinvolge tutto il sistema per garantire la pratica dello sport, e perché no, se qualcuno di questi ragazzi ha dei requisiti particolari, li possa esprimere nel tempo. Direi che siamo sulla strada giusta, anche se stiamo muovendo i primi passi, però il talento, il campionissimo Alberto Tomba ce lo regalerà non solo la Fisi ma soprattutto Madre Natura, ma una fascia magari di atleti di alto livello e soprattutto di sportivi consapevoli, credo che possano costruirsi proprio attraverso questo percorso. E allora grazie a Roberto Manzoni, coordinatore tecnico del progetto Futurfisi, per essere stato oggi nostro ospite qui a Radio 24 a Bordo Campo. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento, come sempre, per domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.